Per prima cosa che 20.000 persone, 20.000 bolognesi hanno risposto al nostro questionario sulla Città 30, quindi una grande operazione di ascolto e di partecipazione. 20.000 sono veramente tanti, così come le segnalazioni sulle strade pericolose, 18.000, quindi ne ricaviamo tanto una grande voglia di partecipare, dire la propria. Chiaramente hanno risposto sia le persone favorevoli che quelle contrarie. Il primo punto che emerge è che c'è grande consapevolezza che si fa questa operazione per rendere la strada più sicura e salvare vite. Questo è la cosa che ci tengo a dire in particolare. Il nostro obiettivo sarà anche l'indicatore di risultato della Città 30 e quante vite saremo riusciti a salvare e quanto avremo ridotto gli incidenti nella città di Bologna nei primi 2 anni di svolgimento di questo programma. E quindi non facciamo questo per aumentare le multe o per rovinare la vita alle persone che lavorano, anzi adatteremo il provvedimento, grazie anche ai tanti suggerimenti che sono arrivati tra questi 20.000, a partire proprio da questo obiettivo. La richiesta che viene avanzata è quella di investire sul trasporto pubblico e lo faremo e lo stiamo già facendo, aumentare le corsie ciclabili sicure. Abbiamo 24 milioni di euro investiti proprio per mettere in sicurezza le strade in marciapiedi. Tra questi 20.000 ci sono sia persone favorevoli che contrarie, quindi abbiamo ascoltato tutti. 7 su 10 sono disponibili a cambiare il proprio stile di vita, adattare il proprio modo di guidare per andare incontro alla scelta della Città 30. Quindi sicuramente, come sempre, i bolognesi sono molto disponibili a assumersi una responsabilità verso gli altri, a fare qualche cosa per migliorare la qualità della vita di tutti, e c'è molta curiosità su questa misura anche da parte dei critici, che comunque da gennaio vedranno le ordinanze e ovviamente l'organizzazione della città cambiare. Ci sono diversi spunti. Innanzitutto sono indicate le strade secondo i bolognesi più insicure, sono via Murri, via Toscana, via Massarenti, strade che molti ci dicono non mettetele ai 30 perché non si riuscirà più ad andare al lavoro. In realtà sono proprio le strade che i cittadini ci chiedono di mettere in sicurezza, e sono già strade nelle quali durante l'orario di punta non si arriva di certo ai 30 km/h, quindi semmai questo questionario ci rafforza nell'idea che va fluidificato il traffico, bisogna puntare sul trasporto pubblico, sul tram e sui progetti del trasporto pubblico che presenteremo nel prossimo mese anche a seguito dell'evento Garisenda, perché ricordiamoci che la Garisenda cambierà il nostro modo di muoverci in città. Dunque abbiamo di fronte 5 anni nei quali i tanti cantieri che stiamo sviluppando cambieranno il modo di muoverci, e noi vogliamo che alla fine del mandato i bolognesi, i residenti, possano muoversi meglio con l'autobus e il tram, possono decidere di lasciare di più l'auto a casa, e so bene che non tutti se lo possono permettere di lasciare l'auto a casa, ma il fatto che la città lavori affinché loro possano farlo credo che sia una cosa importante. Ricordo che il 70% dei movimenti delle persone che vivono in città è meno di 1 km, quindi a volte prendiamo l'auto per fare un tragitto che potremmo fare altrimenti. Dobbiamo far sì che l'auto venga usata soprattutto da chi lavora, da chi ne ha le esigenze, quindi è anche una questione culturale e di organizzazione.